Buongiorno a tutti e tutte, buon 25 aprile, biografia rivoluzionaria sta per iniziare. Eccoci qua, Davide Guglielmo. Ah yeah, mandiamo la nostra sigla solo per oggi e basta, ci sentiamo tra pochissimo, iniziamo a raccontarvi qualche bella storia di partigiani e partigiane. Facciamo una dissolvenza e ci siamo. Questi fasci, meglio se lasci che si radunino, almeno li si fa fuori tutti con un colpo unico. Per me il fascista è stupido, per me il fascista è un porco, per ideologia suddito di un uomo che è già morto. Adunati da sto sporco per lottare una battaglia sociale, sbrano il cuore nero che rende fiero un animale, qua è battaglia incessante. Non toccate Pugale, MC militante, colui che spacca il guscio alla tartaruga. La mia battaglia Mein Kampf contro seguaci Mein Kampf a suon di rap. Uomo contro uomo come fu in partenza, razzista verso i razzismi, sfocio nell'incoerenza. Ma quella capa rossata dopo l'ennesima razzata è tale quale al prepuzio dopo l'ennesima chiavata. Rap caverna posti a fascino, nel senso che accetta tutti ma fasci no. Ora piove, odio e merda, è la vendetta dall'olio di ricino, è la vendetta dall'olio di ricino. Mi esercito per resistere al vostro esercito e se ci penso evito lo scontro fisico contro il maiale. Salutiamo tutti e tutte i vicini di casa che ci ascoltano, ciao Alberto, ciao Marlen, ascoltatori direttamente da Comunità Nuova. Sì, qua dobbiamo già delle giustificazioni per il nostro ritardo. Esatto. Per voi avete fatto già... Praticamente abbiamo fatto il giro, abbiamo fatto un giro clandestino delle corone perché insomma il 25 aprile di stare a casa non ci andava assolutamente. Distanti un metro. Più di un metro. 2-3 metri, ma appunto abbiamo trovato dei solerti dottori dell'ordine che ci hanno ricordato che eravamo troppi e mi veniva da dirgli che potevano prendere le ferie quasi quasi. Il tuo raduno come pensa, resistenza attiva, antifa, organizzati per tenerla viva nella memoria collettiva. Chi vi dice che è morta nel 45 probabilmente non capisce oppure finge, ricorda la storia che a poco la uccide con la corda oppure la pistola. Follow your leader, c'è un modo di cancellarli dai partiti del globo, lo trovo negli insegnamenti degli arditi del popolo. Tu fascio infame carogna, chi è che cerca rogna, ora tu cerca un briciolo di vergogna. Sai cosa ti aspetta quando in furia la bufera che pugni sul muso ti ritrovi la faccetta nera. Io non predico né pace né pietà, né tregua per chi non ne dà e se ne frega dell'iniquità. Qua vorreste pure sedare la rabbia, chi sta dentro ormai sa già come segare la gabbia. Parlo, parlo, parlo, tu non capisci, parlo, parlo, parlo, tu non capisci, per spaccare tutto si spranga il coltello. Io quando ci provo uso rime e cervello, antifascisti sempre, ci mancherebbe. Sammy Pop Lab, senti che ricette. Democrazia, rap e melodia, basti come garanzia, penso sempre con la testa mia. Tutti i fascismi sono cataclismi, elettroencefalo piatto come un frisbee e capisci. Libera cultura è ciò che fa paura, che ha la testa vuota e chiusa da una serratura. Persa la chiave rimane solo dio razziale, cultura del macismo un'ignoranza bestiale. Non hai mai letto un libro ma quale moschetto, col cappio e capovolto è un fascista perfetto. Togliere il potere al popolo, imporre opprimere la libertà, mi ha sempre dato il vomito e la mente di un malato cronico che gioca risico col demonio e sottrarre il patrimonio naturale dell'umano in quanto tale. Potere dittatoriale di un partito unico, metodo di ditto bulgaro, troncare lingue ditte le vie dell'informazione, ci è lagra la lega che slega neofascismo plurimo e a dir poco lurido, forze armate europee che calpestano diritti a suolo pubblico, è ridicolo, hanno pure frequenze radio, associazioni segrete, NATO bombarda gladio, infiltrazione allo stadio, nazisti fascisti con l'odio pieno ma con lo sguardo gaudio. Io guardo e godo il fascio che accascia al suolo, bruciandosi la svastica di plastica ritornerà uomo. Io non faccio mai di tutta l'erba un fascio, ma un fascio se mi tocca sotto l'erba ce lo lascio. Non meritate manco che io sprechi il mio fiato. La fiaccola della socialità rimane viva. Ti arrivo con gli zombie degli anarchici che i russi avevano fatto fuori prima di scendere in campo contro i franchisti. Rendo il blocco studentesco un blocco assenteisti. Zitti su Mussolini e quelle tali astute mosse che poi mi fate salire le brigate rosse. Questo non è Capri Ponte che suona faccetta nera, Soviet trap caverna fosse, socialismo tarda sera. Crudi b-boy contro i nazi come status yo, noi figli della terra, voi di un culto robot. Siete metastasi di un cancro alieno con più sbocchi, perciò alle prossime elezioni voterò Kropotkin. Esperti in agguati, accoltellamenti, vuoto nel cuore, stupido in testa, odio tra i denti, ignoranza è la tua forza, sotto la scorza agli anfibi manca intelligenza, si vede dai giudizi che affibi. Dici negro, comunista, cinese, ebreo fin da principio, disprezzati come testimoni anteo fin da principio, ridicoli senza dignità o pudore, deviazione umana è certa, colpa del genitore. Facci si cresce, non si nasce, mi rincresce vedere le vostre facce non ancora presa colpi di pesce, anche se lami finisci come i salami, appeso a testa in giù con gli altri infami, affami e disfami di violenza, la tua mimica mi si mimica tale che educazione civica, racconto storie di resistenza. Killapi, Davide, a suo tempo Matteotti, vittime degli scarti, scarsi di numero e comunque troppi. Direi che la Rap Caverna gliele ha cantate abbastanza chiaramente. Carissimi, sì. Ma inizieremo con raccontarvi le storie di alcuni partigiani che stanno dando il nome alle brigate di solidarietà volontarie. Oggi come ieri, partigiani presenti nei nomi delle varie brigate che stanno fronteggiando l'emergenza coronavirus, impiegate nei vari diversi... cosa è successo? C'è un ritorno stranissimo. Allora, passiamo alla musica, così proprio non ce ne sono più. Ma a me fischia una cuffia, a te fischia una cuffia? Ma no. E allora sarà proprio. Forse ti fischiano le orecchie? Può darsi, chi lo sa. Vabbè, e quindi i nomi di partigiani e partigiane che danno i nomi alle brigate di solidarietà attiva attive nell'emergenza, no? Brigate di solidarietà per l'emergenza, le BSA era un altro gruppo che si muoveva quando c'è stato il terremoto in Emilia, l'alluvione in Liguria. Ma va bene, partiamo da una delle più celebri brigate in questo momento, bisogna fargliene riconoscimento ed onore, compagni e compagne dell'Ambretta, la brigata Lena e Modotti, che abbiamo scoperto oggi essere due nomi diversi. E facciamogli onore, sono appunto due diversi partigiani. Emanuele Lena, che vi racconterò io, nasce a Siracusa, un siracusano che l'8 settembre decide di abbandonare l'esercito e si dirige a Tolentino, dove si unisce a un gruppo partigiano. Prende subito il comando della brigata, dato che il comandante in quel momento era ferito, e questo gruppo si distingue per le sue azioni. Si occupavano di bloccare i rifornimenti dei tedeschi lungo una strada. Durante un periodo in cui il CNL aveva deciso di fermare un pochino le azioni in quella zona per aspettare i rifornimenti, Lena, che nel frattempo aveva preso il soprannome di Acciaio, decide di spostare il suo gruppo in un'altra zona perché non era favorevole alla decisione di bloccare le attività di sabotaggio della sua brigata. Così per fermare la sua insubordinazione viene smissata la sua banda, il suo gruppo, e viene sciolto. Fino a qualche mese dopo, quando lui riesce invece a richiamare i suoi compagni e riprendono l'attività. Verrà poi arrestato, si darà quindi alla fuga per continuare l'attività partigiana nel nord Italia, dove sceglie di continuare a lottare perché valuta fosse importante la sua presenza lì. Quando viene catturato, non riconosciuto immediatamente come partigiano, ha di fronte la scelta o arruolarsi nell'esercito dell'RSI o la deportazione. Lui sceglie di fare l'infiltrato e entra nell'esercito dell'RSI, dove continua la sua attività antifascista, favorendo la fuga di soldati insieme ad armi, facendo propaganda anche all'interno delle truppe, fino a che, quando ormai era evidente, è stato scoperto, viene arrestato e durante la sua deportazione scappa dalla finestra del bagno, dove però viene scoperto e ucciso a colpi di mitra durante la fuga. Questa è la storia di Emanuele Lena, partigiano da cui hanno tratto parte del nome e i compagni e compagne della Brigata dell'Ambretta. L'altra metà del nome è Modotti, da Mario Modotti, partigiano friulano, che partigiano friulano e autodefinito operaio comunista. Contribuì a costruire il nucleo di resistenza in Friuli dopo l'armistizio dell'8 settembre, diventando già il 15 settembre comandante della 118esima Brigata Garibaldi. Ed è sorprendente come in quel periodo, in meno di otto giorni, meno di una settimana, sì, nascevano le brigate, si diventava comandante, si iniziava a combattere. È evidente che questo era il risultato di una vita intera spesa per l'antifascismo all'interno di fabbriche, vari movimenti operai e non. La sua guerra contro il nazifascismo e l'occupazione dura un anno e qualche mese, perché nel dicembre del 44, in seguito a un tradimento, viene arrestato, portato in un campo di prigionia per partigiani e prigionieri politici, verrà torturato per 20 giorni insieme ad altri 20 partigiani e infine condannato a morte. La sua storia è breve, non se ne sa, cioè quella che ho trovato io perlomeno non ha troppi spunti. La cosa che secondo me è molto interessante è leggere parte della lettera che ha mandato al figlio durante gli ultimi giorni di prigionia, prima di venire giustiziato, laddove punto primo riconosce da subito che se anche i tedeschi avevano promesso di scarcerarne qualcuno, lui sicuramente non sarebbe stato tra gli scarcerati, quindi aveva già conoscenza della sua morte, ma in cui fa due cose secondo me molto molto belle. Punto primo, nonostante appunto sia stato un episodio breve rispetto alla sua vita, quando è morto aveva circa una trentina d'anni, di un anno, riconosce come gloriosa e fantastica la partecipazione nelle Brigate Garibaldi e si rammarica per non poter vedere quello per cui ha combattuto. D'altra parte, secondo me, fa emergere molto chiaramente, chiedendo al figlio di rintracciare la spia che l'ha venduto insieme agli altri della Brigata Garibaldi ai nazisti, che ha tradito e ha consegnato lui e i suoi compagni ai nazisti, gli chiede di vendicarsi. Ecco, secondo me il tema della vendetta è un tema che i movimenti affrontano giustamente, con molta delicatezza, e molto spesso quasi rimuovono questa parte di ciò che è l'esperienza partigiana, ovvero donne e uomini che si sono dovuti trovare in situazioni estremamente complicate, complesse e violente, laddove si sono dovuti trovare a essere torturati e anche a torturare, perché in bacio c'era la vita di altre persone, di altri partigiani, di altre partigiane. Ecco, nel fatto che lui non rifiuti per niente la vendetta e anzi la chieda a suo figlio, secondo me bisognerebbe riflettere un attimo su quella parte di resistenza che è stata la parte più oscura e anche orribile della guerra, e cioè la violenza perpetrata a freddo su chi tradisce, su chi non partecipa, su chi è confidente con il nemico. Perché talvolta bisognerebbe forse, secondo me, affrontare un po' più la realtà per quella che è, e talvolta la realtà, anche e soprattutto da guerra partigiana a cui noi ci rifacciamo spesso, è fatta di questo, di episodi che non sono né edificanti né belli, però che rappresentano benissimo il momento e il periodo che stavano vivendo i partigiani e le partigiane in quel periodo. Anche perché poi, oltre a un velo mitologico che è stato messo sopra questa data del 25 aprile, e la giornata della liberazione, il concetto di liberazione, accanto a questa mitologia si è anche fatta una grande opera di pacificazione, la pacificazione che sicuramente vediamo ancora oggi e abbiamo visto nei decenni scorsi, ma pacificazione che negli anni subito dopo la fine della guerra è avvenuta, tant'è che buona parte dell'apparato statale fascista si è poi riciclato. Lo vedevamo anche e lo vedremo poi nella storia di alcune biografie partigiane. Assolutamente, secondo me bisognerebbe sempre valutare giustamente le parole di quel fantastico Alessandro Barbero, che giustamente dice: sì, è vero, i partigiani hanno rubato delle mucche, sì, è vero, i partigiani hanno torturato quello e quell'altro, e quindi trovi degli anziani che ti dicono: ah, quante ne hanno fatte i partigiani a me, mi hanno ucciso il fratello piuttosto che rubato una mucca. E lui risponde: e chi se ne frega, la resistenza è un movimento di uomini che, come tutti gli uomini, con azioni complesse che involvono intere nazioni, talvolta sbagliano e talvolta hanno anche dovuto fare delle scelte contraddittorie per riuscire ad arrivare all'obiettivo principale. E se a te ti hanno rubato la mucca, ammazzato il fratello, evidentemente doveva andare così, così è andata, e forse era meglio ed era più importante il bene collettivo superiore che si stava inseguendo distruggendo il fascismo e il nazismo. Insomma, diciamo che la guerra è guerra. Esatto, va bene, procediamo col prossimo partigiano o partigiana. Sì, ma raccontaci un po' la storia del partigiano che dà il nome alla vostra brigata, Gulli. Esatto. La nostra brigata, benissimo, che è anche un po' tua. Fra poche ore direi, perché sto per entrare anch'io nel gruppone della brigata, e, che viene spesso chiamata Brigata Zamo Milano Sud, ma si chiama Brigata Giulio Paggio. Allora, chi era il buon Giulio Paggio? Giulio Paggio era un partigiano e combattente comunista affidato alla 116esima Brigata Garibaldi e che ne è salito al comando poco dopo l'inizio dei combattimenti. Cosa ha fatto però il compagno Paggio? Il compagno Paggio è altresì noto come comandante Visone. Prima, scusatemi, la Brigata Garibaldi, di cui faceva parte Paggio, combatteva in Valdossola e poi Lambrate. La cosa peculiare del comandante Paggio, nome di battaglia Visone, e già spero che il nome dica qualcosa a qualcuno, sì, dovrebbe essere comandante Visone, sì, era lui agli ordini del tenente Alvaro quando combatteva nella Garibaldi. Nel dopoguerra, Paggio, ovvero comandante Visone, creò la Volante Rossa, un'organizzazione paramilitare comunista che si propose di non terminare la resistenza, cioè essenzialmente hanno continuato a condurre azioni militari, peraltro assai ardite, per giustiziare tutti quei fascisti che erano sfuggiti ai rastrellamenti e alle scelte di guerra, alle scelte di omicidio politico e scelte di omicidio per guerra fatte dai comandi partigiani. La celebre Volante Rossa, tra cui c'è anche la 808, che il nome che scelsero, che veniva da un esplosivo, 808. Esatto. E quindi niente, per esempio, perché è peculiare questa storia? Vabbè, ovviamente è peculiare perché fu una delle pochissime formazioni armate che continuò la guerra dopo il 45. E peculiare perché nel 49 fu accusato di un omicidio compiuto nel 49 quando uccisero un generale dell'esercito fascista, e nel particolare, se non sbaglio, di quella organizzazione dell'esercito fascista che guidò la campagna di Russia. Ecco, per questo omicidio, per un altro omicidio, fu accusato insieme ad altri tre compagni alla Volante Rossa e condannato all'ergastolo. Ma essendo in contumacia, scappò nel blocco sovietico, per la precisione a Praga, dove rimase a vivere praticamente fino al 2008. Una volta, cioè, tornò in Italia alcune volte, ma di fatto poi si costruì una vita a Praga, dove divenne giornalista e corrispondente del Partito Comunista a Praga. Quindi facevamo una trasmissione radiofonica in cui faceva notizie in italiano per tutti gli esuli italiani nel blocco sovietico e in particolare nella Jugoslavia. Particolare perché? Perché qualcuno nel 49 poteva già essere processato di omicidio quando era un ex partigiano ed agiva in coerenza con le sue scelte di lotta partigiana, uccidendo un gerarca fascista che invece poteva vivere tranquillo e sereno, molto probabilmente anche campando con la pensione che lo Stato gli passava in quanto ex militare. E questo, cioè, ci apre uno spaccato che secondo me è illuminante, soprattutto è uno spaccato che possiamo vedere ancora meglio se leggiamo Asce di guerra dei Vuming, una cosa che mi accende personalmente, una lettura che personalmente mi ha sconvolto, perché ho scoperto che effettivamente nel 49, nel 56 il questore di Milano era lo stesso che c'era nel 40, nel 39, i reparti della celere erano gli stessi, nei tribunali trovavi gli stessi magistrati che erano stati formati sotto il fascismo e che avevano iniziato la propria carriera in tribunale sotto il fascismo, per cui un partigiano poteva aver fatto la guerra, magari avevano ucciso gli amici, la madre, un'amica, la moglie, la compagna, piuttosto che i fratelli, persone della propria famiglia, magari era anche mutilato di guerra nelle azioni, essere stato torturato, essere stato riconosciuto come eroe di guerra perché aveva ritagliato il nazifascismo, poi andava magari a lavorare in fabbrica e quando facevano uno sciopero arrivava il reparto della celere che era lo stesso che lo picchiava quando era sotto il fascismo o di cui facevano parte i fascisti, a cui lui magari aveva anche sparato. Questo punto viene da dire, purtroppo senza ucciderli, durante la guerra. E questa cosa è stata un enorme rimosso nella società italiana, cioè lo Stato non si è defascistizzato con la fine della guerra, ha mantenuto le stesse persone che infatti giudicavano poi come assassini chi invece semplicemente terminava la guerra. Eccola, come la figura del comandante Paggio mi consegna a me personalmente un po' questa riflessione per l'ennesima volta, perché appunto non penso, cioè beh, io l'ho già fatta, ma non penso che sia materia nuova per chi studia un po' di resistenza e per tante persone con i nostri ideali. E basta, forse ho parlato anche troppo. Mi è fatto venire in mente due cose. La prima in realtà la storia di Pinelli, che è stato arrestato anche negli anni 70, oltre che da ragazzino, e condannato da uno stesso giudice, e quindi che prima lavorava per il fascismo e poi negli anni 70 per i primi movimenti. E la seconda storia che mi è fatto venire in mente è quella di Reuccio, che è un partigiano che purtroppo ci ha lasciato a gennaio di quest'anno, che ho avuto l'onore di conoscere. Reuccio è stato un partigiano che a 17 anni nel 45 scelse di non fermare la sua lotta armata di fronte alla svolta di Salerno, di fronte a Togliatti che aveva insieme agli altri partiti del CNL iniziato un governo di pacificazione, un governo di unità nazionale. Questo gruppo di partigiani si asserraglia su una collina e scrive un documento per invitare tutte le altre truppe partigiane a continuare la battaglia, a continuare la resistenza per un futuro per lanciare una rivoluzione internazionalista e di classe, quindi per un futuro giusto e non con un'alleanza con paesi come l'America e tutto ciò che poi ne conseguiva. Mi ha fatto venire in mente questa storia, quindi insomma un pensiero anche a Reuccio, che ho avuto la fortuna di conoscere a gennaio, a ben 86 anni se non ricordo male. Sì, Allora, forse cioè, beh, è il momento giusto per una canzone, cosa dici? Interrompiamo un attimino, così riprendiamo fiato noi, facciamo riprendere serenità a chi ci ascolta, anche se in realtà la canzone scelta apposta si chiama Haitian Fight Song, perché mi pare che gli interventi che abbiamo fatto erano abbastanza combattivi. Ascoltatevela perché insomma è bella, e anche se sono haitiani non vuol dire che non facciano resistenza. Buon ascoltissimo e a tra pochissimo con Biografie Rivoluzionarie, 25 aprile 2020, purtroppo tutte in casa, ma questo non vuol dire che non siamo per la resistenza e la liberazione. Buon ascolto! Ed eccoci di nuovo qua. Buongiorno. New York Ska Jazz Ensemble, Haitian Fight Song, una canzone per il combattimento. Direi che il 25 aprile ci sta anche questo. Va bene, continuiamo nella nostra descrizione dei partigiani che danno i nomi alle brigate. Sì, io vi dirò solo una piccola perla sulla storia di Basaglia, che il cui nome è stato dato cui nome è stato dato anche a un'altra brigata, sì. In Garbuglio. Scosso perché mi viene alle parole. Le distanze di sicurezza che impone aiuto. Il governo. Oddio. Torniamo una persona che ci tiene. Fortunatamente ho una sedia con le rotelline e quindi si sentono, però, se mi distanzio rapidamente. E quindi noi ci siamo chiesti, ma Basaglia, perché hanno dato anche il nome di Basaglia? È stato partigiano? Abbiamo pensato, Basaglia, mille motivi per dare un nome a una brigata, ma ha avuto anche in realtà una storia legata all'antifascismo. Lui nel 1943 si iscrive alla facoltà di medicina a Padova e frequentando un gruppo di studenti antifascisti viene poi arrestato a causa del tradimento di uno di questi. Viene poi arrestato e si farà 6 mesi in carcere fino alla fine della guerra. Questa sua esperienza poi lui la ricorderà nei suoi scritti quando parlerà dei manicomi e degli istituti di detenzione. L'ha vissuta sulla prima pelle e sulla propria pelle, e l'ha vissuta durante il fascismo proprio perché aveva fatto una scelta da studente. La prossima storia? No, beh, naturalmente, secondo me... No, l'avremmo mica finito, insomma. No, perché la questione è che probabilmente il nome di Basaglia è legato ovviamente alla legge, quella in cui... Esatto. Che ha portato alla chiusura dei manicomi. Che porta alla chiusura dei manicomi, quindi alla fine del quel regime medico che voleva il malato di mente internato in una struttura di controllo totale, per cui non poteva più uscirne, veniva tra l'altro seviziato con cure anacronistiche, elettroshock, cioè non c'era la cura del malato mentale, c'era il contenimento e l'imprigionamento del malato mentale, infatti confinato fuori dalla società. Basaglia ha avuto, cioè la grande svolta anche culturale della legge Basaglia è che la malattia mentale deve essere portata all'interno della società perché se ne prenda cura. L'italiano oggi manca. Prima di mezzogiorno e un quarto possiamo sbagliare tutte le parole che vogliamo. Perché c'è la brigata Basaglia? No, perché è importante. È fondamentale. No, la brigata Basaglia è una brigata che non si muove nella città portando pacchi, ma è quella che si sta occupando prevalentemente di gestire i centralini, formare i centralinisti e le centraliniste. Per problemi legati alla psichiatria. Tra l'altro, ma anche in questo periodo c'è stato anche un aumento di TSO. Immaginiamo la condizione di chi vive un disagio mentale, psichico, durante la quarantena e con i servizi di assistenza ridotti ai minimi termini. È un problema grosso anche questo, e in questo anche le brigate sono riuscite ad operare anche in questo ambito. Tra l'altro mi hai fatto grazie che hai aggiunto due parole su Basaglia, perché qua mi si apre un po' una riflessione su che cos'è l'antifascismo e quanto possiamo allargare la critica al regime autoritario e al controllo, nel senso che sì, il fascismo sono le camicie nere, è la repressione del diritto della libertà di stampa e di parola, ma il fascismo è anche tanto altro. E sicuramente anche la repressione di un disagio che spesso è indotto dalle condizioni sociali, possiamo definirlo una forma di ingiustizia e autoritarismo. E quindi la domanda che faccio a tutti e tutte voi ascoltatori e ascoltatrici a casa è: dove inizia e dove finisce il fascismo? Cos'è il fascismo? È davvero solo una dittatura? È un solo camicie nere, botte nelle piazze, esatto, è lo stato di polizia, o possiamo anche appunto intercettarlo dentro una concezione del mondo che include anche dall'economia al concetto di cura dell'altro? Già. Quindi complimenti alle brigate Basaglia che si stanno occupando in questo periodo di attivare servizi come sportelli telefonici di ascolto, di aiuto, poi naturalmente indirizzano la maggior parte dei casi a chi lo fa di professione. Però effettivamente, come al solito, se già prima prima dell'emergenza, il sistema capitalista in cui siamo immersi rifiutava di prendersi cura dei più deboli, dei più fragili. In questo momento ancora di più, perché pensate voi cosa deve essere per una persona che soffre di problemi psichici non poter andare dallo psicologo fisicamente, non poter andare nelle strutture, non poter ricevere le cure. E come al solito si è pensato a riaprire le fabbriche, se non sbaglio, ma mica si è parlato di riaprire i servizi sociali alla persona, eccetera eccetera. Sì, poi quello dipende un po' dal tipo di servizio. Quel che è certo è che già nell'ordinarietà chi ha un disagio mentale è abbastanza ai margini, e poi spesso, come ben sappiamo, la marginalità economica è sempre va assieme con quella fisica e mentale. Insomma, la disabilità viene spesso non è da sola, perché poi se nasci in una famiglia ricca sei fortunato, ma spesso se sei disabile magari poi diventi povero, o se sei povero e disabile affonderai ancora più a fondo. Va bene, allora continuiamo nei racconti delle biografie che stanno dietro i nomi delle brigate per l'emergenza attivate sul territorio di Milano. Arriviamo a Franca Rame, che dà il nome alla brigata attiva dalla Camera del Non Lavoro. Credo che, se non sbaglio, sia zona 8, perché loro alle spalle hanno Silvia Lecertosa, se non sbaglio, quindi è zona 8. Franca Rame è un'attrice molto nota, drammaturga, politica italiana, che iniziò la sua attività politica e artistica negli anni 60, andando a sposare molto, molto, molto in fretta, da subito, le rivendicazioni del momento del 78, andando soprattutto con la sua persona e poi più tardi con Dario Fo, che divenne suo marito, andò a fondare un movimento che portava il teatro fuori dai teatri. Diciamo che l'istituzione teatro in Italia ancora negli anni 50 e 60 aveva delle fortissime rimostranze a uscire dal teatro, ad abbandonare la forma alta di teatro organizzato, istituito con fondi pubblici piuttosto che con fondi privati. Franca Rame aprì appunto alla sperimentazione teatrale, portando il teatro nei luoghi del popolo, quindi case del popolo, ma anche e soprattutto occupazioni di case, di scuole, di università, di fabbriche, per andare a portare di pari passo contenuto drammatico, insomma culturale, laddove il popolo si prendeva coscienza di sé e si organizzava. Fu molto importante la partecipazione, appunto, insieme a suo marito all'edizione di Canzonissima, se non sbaglio una delle prime edizioni degli anni 60, in cui, in seguito a uno sketch in cui anche molto, molto molto ironico, che abbia successo proprio perché con delle battute molto azzeccate, fece notare che la quasi totalità degli imprenditori edili italiani al tempo non forniva dispositivi di produzione individuale ai lavoratori. La critica, nonostante fosse fatta a mezzo satire, quindi tra risate e battute, fu così feroce che venne chiusa l'edizione di Canzonissima e loro rispediti a casa perché erano personaggi scomodi. Franca Rame era una persona così scomoda e così libera che venne poi messa sotto l'attenzione di gruppi di estrema destra e dei vari organismi deviati dello Stato. Deviati, oddio, quasi come se ci fosse una parte dello Stato che funziona meglio delle altre. Insomma, mi sfugge purtroppo la data in questo momento, però venne un giorno caricata su un furgoncino da 5 uomini, poi si scoprì facenti parte dell'estrema destra e delle versioni nera delle organizzazioni neofasciste, su comando, invito, su suggerimento dei vertici dei carabinieri, sempre di Milano, e venne stuprata. Franca Rame affrontò la vicenda del suo stupro portandolo in scena in uno dei suoi spettacoli più famosi nell'81 e poi nell'86, Tutta casa, chiesa e letto, se non sbaglio è il titolo, in cui riuscì poi ad affrontare questo dramma dello stupro uscendone più forte, uscendone rafforzato, facendo vedere come questo meccanismo assolutamente patriarcale, macista e fascista, proprio nel termine più maschile che possiamo avere, gli si imponeva di stare in silenzio. In quanto donna, in quanto libera, in quanto non accettava di starsene zitta a casa, qualche uomo pensò bene di doverla castigare così, con l'utilizzo di una pratica sessuale senza consenso. Sì, lei scrisse un monologo agghiacciante, fortissimo, per raccontare questa esperienza, dove sì, appunto, lei stessa fa notare questa scelta dello stupro come strumento di punizione, tra l'altro cosa che poi stiamo rivedendo tuttora in Sud America, abbiamo rivisto continuamente, no? Gli eserciti dello stupro sono spesso andati insieme. Quindi, sopravvissuta in qualche maniera rinata dopo questa esperienza, Franca Rame partecipa alla politica istituzionale, vincendo le elezioni e diventando senatrice per il Piemonte. in alcune legislature. Negli ultimi anni della sua vita, dopo il 2000, rinuncia poi alla Camera alla carica di senatrice perché si era resa conto che le istituzioni erano totalmente impermeabili e reticenti ad accogliere le richieste di chi aveva bisogno o di chi semplicemente non stava all'interno di quei gruppi di potere, di quei gruppi di interesse, dei partiti che erano in quel momento in Parlamento. Per cui, reputando lo strumento ormai inutile per l'aiuto reale alle persone, abbandonò l'attività politica istituzionale. Morì in seguito a un ictus nel 2008, viene ricordata con un bellissimo murales in una via un po' nascosta in zona Navigli, laddove sta un bellissimo bar a cui possiamo fare pubblicità perché sono amici, cioè davanti allo Zanardi, al caffè Zanardi. La via purtroppo non me la ricordo esattamente, è una via un po' nascosta, bisogna girare un pochino alla Darsena, nel Naviglio, dietro, Naviglio Pavese. Dietro, comunque, dietro via Gola. Sì, è lì in quel quadrilatero di vie. È un bellissimo murale, è andato a vedere, fatto dai Voxwriter, quando questa quarantena sarà finita, o anche nei giorni della quarantena, basta avere un po' d'attenzione, mascherina, bicicletta, esatto, una buona autocertificazione. E questa era la storia di Franca Rame, che dà nome alla brigata della Camera del Non Lavoro, dei compagni e delle compagne della Camera del Non Lavoro. Wow, sì, io nel frattempo torno in me, stavo leggendo delle news... E... sei polimultimediale. Sì, stavo, scusate, insomma, polimediale. Il mondo non si ferma neanche in quarantena. E io invece vi racconto la storia di Onorina Brambilla. In realtà, più che raccontarvi tutta la sua storia, tra l'altro approfitto per ricordare e annunciare che Milano in Movimento in questi giorni, in queste due settimane circa, ha pubblicato quotidianamente una rubrica che raccontava storie di resistenza o biografie o vicende che hanno contribuito alla battere il fascismo. E la storia di Brambilla, infatti, la riprendo da Milano in Movimento, appunto, la storia di questa donna che sfidò i carri armati in Piazza Loreto quando durante un comizio antifascista intervenne l'esercito per disperdere la folla. Lei è nata il 26 luglio, questo avvenimento è stato il 26 luglio del 43 e il comizio era in Porta Venezia, non in Piazza del Loreto, scusate. Rimane il fatto che siamo poco prima dell'armistizio dell'8 settembre, quindi diciamo che iniziamo a scricchiolare un po' di cose in Italia. Esatto. E il comizio era quello di Pietro Ingrao e quando arriva l'esercito in piazza, appunto, come diceva adesso Gulli, c'è uno scricchiolamento e non c'è determinazione da parte delle forze armate nel reprimere la folla. Infatti di fronte all'esercito fermo la folla riesce a prendere coraggio e lei per prima sale in piedi su un carro armato impedendo che appunto inizi a reprimere con violenza la folla. Tanto un ufficiale gli punta la pistola, ma si vede in brevissimo tempo che nessuno aveva veramente voglia di sparare, forse solo qualche ufficiale più convinto di altri avrebbe voluto sparare, ma le truppe o la truppa non rispondeva molto ai comandi. Esatto, poi grazie a questo suo gesto le persone la seguono, ma questa cosa fa pensare che a volte comunque anche il gesto dei singoli è importante, perché a volte è un esempio, a volte dà forza. E quindi sì, non siamo mai soli, ma dobbiamo ricordare che a volte anche i nostri singoli gesti hanno un'importanza davvero grande. Va bene, biografie rivoluzionarie, altro stacco musicale per allietare un attimino le folle che ci stanno seguendo sicuramente via radio in questa giornata di liberazione. Mettiamo quella canzone antifascista del gruppo che non ti aspetti, Chumba Wamba, On the Day the Nazi Die. Ricordiamocelo quando andiamo in serate trash che i Chumba Wamba hanno fatto anche delle canzoni antifa. Buon ascolto. Ho fatto un errorino perché non partiva la canzone e ho preso dei secondi. Buon ascolto, ciao. Yeah. Davide, ma quanto è bello scoprire quel gruppo che non te l'aspettavi ha fatto una bella canzone antifa. È proprio bello, è come dire, ah, ma guarda, un amico in più. Sì, ma è un po' storia. È un po' tipo wow. Esatto, è un po' tipo bella storia. Va bene, allora, noi con le storie dei partigiani legati ai partigiani, legate alle brigate, abbiamo finito. C'è ancora una brigata, la brigata numero uno, dedicata al partigiano Osvaldo, di cui però non siamo riusciti a trovare notizie certe, nel senso che ci sono più Osvaldo, partigiani chiamati Osvaldo, non sono riusciti a trovare quello giusto, più Osvaldi cui, non l'abbiamo fatto. Nominiamo per vicinanza e amicizia altre brigate, sicuramente vorremmo nominare la brigata Shigera, che opera in zona 4 ad opera dei compagni e compagne del collettivo Casciavitte, che va a fare la le raccolte dei supermercati della mia zona, c'è mia mamma che ha dato l'incontro, incredibile. La brigata dei fantastici ragazzi e ragazze del collettivo Stare al Galla, a Galla Ratese, brigata Ghe Pensi Mi, loro sono affezionate a queste formule milanesi. Per chi non ha origini meneghine, Ghe Pensi Mi vuol dire ci penso io. E quindi diciamo che raccoglie proprio il cuore dell'autogestione, di prendersi cura del proprio quartiere. Salutiamo il carissimo Netball che magari ci sta ascoltando, ci ascolterà l'anno prossimo in podcast. Ciao. E salutiamo anche i compagni e le compagne di Macao, che con la propria brigata chiamata Ho Chi Minh, un nome insomma molto importante, così. Fantastico generale vietnamita, che disse: mi piace la bandiera degli Stati Uniti d'America, però quella originale, quella sì. Risposero: quella della federazione con solo 13 stelle, 14 strisce? No, non quella, l'altra, la bandiera bianca. Oh. Aia, e poi mi sembra che abbia detto anche una cosa tipo: vi spaccherò il culo. Esatto, ma non in senso sessista, no. Assolutamente. Assolutamente. Infatti, l'esercito vietnamita aveva posso rifare? Vai, rifare. Penso abbia detto qualcosa del tipo: ti spaccherò il naso. Bravo, bravo, bravo, bravo. Eh? Americano nasone, stai attento, ancora fischia il vento. Ok, fatta la storia dei partigiani, nella giornata del 25 aprile vogliamo fare altre biografie, questa volta più magari collettive, più legate a gruppi, a classi intere. Sì, vi raccontiamo alcuni episodi che riguardano gli scioperi antifascisti che ci sono stati verso la fine della guerra. In realtà, chiaramente, lo sciopero è stato uno strumento usato durante la lotta di classe in tutto il secolo, che è anche stato investito dai regimi dittatoriali. Ma se abbasso questo coso, nessuno mi sente o non mi sento solo io? No, quello è il mio microfono. Okay. Quindi non me l'abbassare, sennò mi sente più nessuno. Okay. Questo qua è il tuo microfono. Il per sentirti proprio. Di più, nelle cuffie, no, devi non alzare voglio questo. Sentirmi proprio, lo trovo odioso. Allora. Lo trovi odioso? Sì. E allora se ti affaccio così... Wow! Se fai così? Sì, dicevo, solo un pochettino. Ah, solo un pochettino. Sono un po' pretenzioso, scusa. Va bene così, va bene così. No, dal 1930 il codice Rocco ha espressamente vietato l'utilizzo dello sciopero. E in realtà già dal 25 era stato comunque abolito come diritto. Il Partito Comunista Clandestino comunque stava organizzando delle azioni di lotta, di fermate del lavoro, che piano piano negli anni diventavano sempre più difficili a causa chiaramente della repressione. Nel 27 infatti la Carta del Lavoro aveva anche aumentato, fatta durante il fascismo, aveva aumentato i controlli, aveva inserito nuove figure E quindi questo, l'organizzazione dei scioperi si faceva più complicata. Ma come? Ma il fascismo non era il movimento dei lavoratori italiani? Non aveva aiutato? Non ha creato un sacco di cose belle per i lavoratori? Era una burla. E lavoratrici? Ma dai, ma pensa. Era una burla. Nel 42 riprendono con forza il movimento dei scioperi in Italia. Il primo fu a Carbonia in Sardegna, che è un luogo dove distrazione del carbone. I minatori iniziano una battaglia di rivendicazione economica contro il caro vita. Infatti erano stati aumentati gli affitti delle case di proprietà dell'azienda mineraria, erano aumentati i prezzi degli alimenti delle botteghe interne, le fabbriche, insomma il prezzo della vita era aumentato. Inizia il primo sciopero. Da quel momento le prime mobilitazioni, sempre a carattere economico, nel 42 la prima manifestazione pubblica contro l'inflazione a Milano, a Sesto San Giovanni, poi sarà rinominata la Stalingrado d'Italia, sia per la presenza fitta di fabbriche, sia per il carattere comunista di quel movimento politico. E il primo duro colpo inflitto a tutto il regime è nel 43, con gli scioperi di Milano e Torino. Sono ancora dei scioperi con rivendicazioni di tipo economiche principalmente, quindi contro il caro vita, ma il malcontento inizia a farsi sentire e sono scioperi che coinvolgono migliaia e migliaia di persone. Questi scioperi del marzo del 43, quindi il regime li prende come la prima botta. Peraltro un compagno della nostra zona ci raccontava, ma qui ovviamente bisogna capire qual è la mitologia e qual è la realtà, perché un po' tutti si vantano di essere stati i primi a fare lo sciopero, naturalmente. C'ero anch'io quella volta. Però si racconta che là dove in questo momento c'è la centrale energetica della 2A, via Lampedusa, era invece una volta la fabbrica della Grazioli, che già ai tempi produceva giocattoli. Gli operai della Grazioli si diceva che 401 erano antifascisti. E quindi si racconta che una delle prime fabbriche che scese in sciopero nel 43 furono proprio i... Ce n'era uno in più, no? Sì, esatto, ce n'era uno in più perché erano così antifascisti che contavano uno in più addirittura. Oh. E quindi niente, una delle prime fabbriche a scendere in piazza in maniera massiccia fu proprio la Grazioli, lì in quelle strade lì dove adesso noi camminiamo e dove è comparso un fantastico murales all'opera di ignoti e di ignote che recita proprio Milano Sud antifascista. Altro piccolo racconto. Chissà super chi divertente. L'avrà messo. Chissà chi, non lo so. Non lo so, forse sono gli stessi e le stesse che hanno fatto il murales e una menos sul muro della cartiera Binda. No, pazzesco. Chissà, incredibile. E che hanno messo i fiorellini ai partigiani stamattina. Pensa che roba. Vabbè. No, altro aneddoto super mega divertente. Quelli della Grazioli erano antifascisti, erano comunisti ed erano anche molto lanciati, per cui alla fine della guerra, in fabbrica, costruirono da soli un muro. Fuori dai, cioè, che non c'entrava niente con loro. Vedo gli occhi di Guglielmo che iniziano a brillare. Da bravo finto muratore quale sono. Hanno costruito un muro dentro cui hanno nascosto le armi. Quando la 2A è andata per ha rilevato il terreno e la fabbrica, la costruzione per fare i propri impianti, hanno scoperto questo muro, hanno scoperto ancora le armi dietro. Porca vacca. Cioè, pensate a che livello. Cioè, no, scusate, adesso devo dare dei fazzoletti. Sta iniziando sono a commuoversi. Sono commossissimo. No, fantastico. Ultima cosa, giusto per rimanere con il tema di prima, la vendetta: ammazzarono il figlio del padrone perché aveva confidato ai fascisti che c'erano degli antifascisti. Aveva infamato. Esatto, aveva fatto l'infamata e quindi dopo la guerra questo figlio venne, credo fosse addirittura fucilato proprio nel cortile della fabbrica. Su quel muro magari. Ecco, magari. Sarebbe proprio una chiusura romantica. Esatto. No, eravamo al 43, e a marzo 43 appunto il primo grandissimo sciopero Milano-Torino e... Alla fine di quell'anno iniziano una serie di mobilitazioni in diverse fabbriche del nord Italia e si arriva quindi al marzo del 44, quando il Comitato di Agitazione del Piemonte, Lombardia e Liguria proclama lo sciopero generale in tutta l'Italia occupata, a partire dal 1 marzo. La decisione chiaramente veniva dal CNL, Comitato Nazionale di Liberazione, Alta Italia, e su iniziativa dei comunisti che avevano fatto pressione per questa azione di forza. E le richieste erano avere l'indispensabile per vivere, non lavorare per la guerra, non essere fermati, arrestati, deportati e torturati dai nazifascisti. Gran parte degli industriali dimostra la sua vera natura reazionaria, rifiutandosi di ricevere le delegazioni operaie, consegnando liste dei scioperanti ai tedeschi, ma nonostante i spietati metodi con cui devono avere a che fare i scioperanti, riescono grandiosamente nella fermata del lavoro. E questo fu il più grande movimento di massa che ebbe luogo nell'Europa occupata dai nazisti, e i preparativi durarono chiaramente qualche mese, qualche tempo. Durante questi preparativi qualche fuga di notizia ci fu, e nonostante i repubblichini sapevano alcuni luoghi, alcuni obiettivi e anche addirittura la data di inizio dello sciopero, nonostante questo, quindi cercarono di fermarli, ad esempio nel Biellese, nella Valsesia, nell'Ossola, vennero messi i lavoratori e le lavoratrici in ferie obbligate, così da impedire lo sciopero. Nonostante questo, essendo molto più esteso di quello che speravano, non riuscirono a influire nel fermarlo in nessun modo. Vennero completamente quindi bloccati i grandi centri industriali, Milano, Torino. Si contano solo a Milano 119.000 scioperanti in 5 giorni, per 3 giorni in modo compatto anche i tranvieri e i post telegrafonici e quelli del Corriere della Sera scioperarono insieme. In totale se ne contano circa 350.000 di scioperanti. I danni inflitti ai nazifascisti furono svariati. Per una settimana la produzione bellica venne interrotta, obbligando a concentrare le forze verso i grandi centri industriali e quindi diminuendo la pressione sull'unità partigiane nelle montagne, nelle valli, quindi ampliando il loro margine d'azione. L'energia dei lavoratori e delle lavoratrici rinvigorì, collegando città campagne e la lotta sulle montagne, e il numero delle adesioni alla resistenza aumentò notevolmente. Infatti poi iniziano anche delle azioni congiunte fra gappisti e scioperanti, quindi da un lato magari bloccano il treno, dall'altra fanno saltare le ferrovie, iniziano delle azioni congiunte, e alcune fabbriche, dopo dei comizi, fu celebre quello alla Elli Zerboni di Moscatelli, dove 400 operai tutti quanti chiesero di essere arruolati in massa nelle formazioni, dopo appunto il suo comizio. Loro, i partigiani che erano lì, gli spiegarono, dovettero spiegargli che dovevano considerarsi dei momento, va bene l'entusiasmo, però 400 partigiani in più, ragazzi, stavo dove metterli, così abbiamo più uomini che fucili, hanno detto. Esatto. No, gli spiegarono che il suo ruolo lì in quel momento era fondamentale e dovevano considerarsi dei partigiani combattenti a tutti gli effetti, e che lo sciopero in quel momento era un'azione di resistenza a tutti gli effetti, e che il loro momento sarebbe arrivato, momento che fu poi l'insurrezione generale. Questo, l'ultima chicca prima di poi passare al racconto su i luoghi della ferocia. Esatto. Anticipo appunto questa parentesi repressiva. Aspetta, Hitler. Aspetta, prima di Hitler che possa parlare, c'è una considerazione da fare. E ammutoliamolo, Hitler. Alla fine, il problema grosso è sempre chi lavora, nel senso che se non produci le armi, se non fai proiettili, tu sei potresti essere il più bravo del mondo a fare la guerra, il politico più bravo, per essere il Benito Mussolini di noi altri, a izzare le falle. Ma se Geneminga lo strumento materiale che qualcuno ha prodotto, milanese, tu sei fregato. E quindi c'è l'importanza sempre del movimento dei lavoratori e degli scioperi, è che se si blocca la produzione, soprattutto nella guerra che alla fine è guerra di materia, cioè di oggetti che viaggiano, colpiscono corpi, eccetera, tu ti fermi. Per cui è fondamentale ricordare che se è possibile la liberazione è perché qualcuno in fabbrica ha detto no, basta, io non lavoro più. E facendo pure una roba che sembra poco rischiosa, no? Qualcuno dice i partigiani rischiavano di morire, le pallottole, il freddo, cioè anche in fabbrica. Alla fine, cioè, se uno si fermava in fabbrica, finiva il fascismo. Certo, infatti Moscatelli gli disse proprio questo, no? Cioè, come comandante di fronte agli operai che dicevano vogliamo venire tutti quanti, gli disse voi siete già nell'unità partigiane, e questo appunto il loro compito in quel momento era stato fondamentale. No, giusto appunto continuando Hitler, adesso per cominciare che dice Hitler? Si è incazzato, si è preso male, e disse, ordinò la deportazione del 20% dei scioperanti, che secondo i calcoli dell'RSI volevano dire 70.000 persone da deportare. Facile. Quindi i tedeschi, esatto, chiesero nel 44 la deportazione di 70.000 persone. Sì, chiaramente erano a pieno regime, sicuramente in quei mesi decimarono migliaia, decine di migliaia di persone nei lager, però chiaramente in un territorio occupato con una resistenza forte che un anno dopo porterà alla vittoria e alla loro sconfitta, e non fu possibile. Infatti ne deportarono 1200 lavoratori e lavoratrici che morirono per questi scioperi, che sono stati appunto un spartiacque nella storia della resistenza. Sarebbe bello una volta dire anche i loro nomi. Esatto, sarebbe bello. E forse ci vorrebbe una canzone per rendere sì. Ah, questa dobbiamo cosa andare fattibile. Una canzoncina? Canzoncina, e poi vi raccontiamo i luoghi della ferocia con un ospite telefonico. Attenzione. Che chiameremo a sorpresa per tutti voi ascoltatori e ascoltatrici, mentre per lui non sarà una sorpresa. Ci racconterà un po' quello che sta facendo anche in questo periodo di quarantena. Va bene, il disegno dell'onda della prossima traccia ci ricorda che deve essere un bellissimo pezzo hardcore punk, fantastico, dei Dead Kennedys, Nazi Punks Fuck Off, direi che è abbastanza esplicativo, cioè non si devono appropriare di spazi sociali e sottoculture che non sono le loro, i nazisti e i fascisti, e basta, ce lo ascoltiamo, devo sempre fare questa cosa prima che sia troppo tardi, buon ascolto. Ci vediamo dopo con il nostro ospite telefonico. This name of this one is Nazi Punks Fuck Off. Ready? Are you ready? What? Where? Don't you feel nice and relaxed right now, Klaus? I'm not supposed to, but I'm angry. Okay. Ready? Yeah. Let's see if we can get it a tiny bit faster than that last one, too. What's this, Nazi Punks take 3? Stop it! No, hold it! Okay, faster. Just start again. Real fast. Nazi Punks fuck off, take 3. Back in the religious school, from singing for yourself. And high five, we got your hair with Jack Phillips inside your hair. Nazi Punks, Nazi Punks, Nazi Punks, fuck off! Nazi Punks, Nazi Punks, Nazi Punks, fuck off! It comes up, so get out of here. You're no better than the bouncers. We ain't trying to be police, and you ain't the cops. It ain't anarchy. Rats punks, rats punks, rats punks. Fuck off! Rats punks, rats punks, rats punks. Fuck off! 10 guys jump up, what a man. 5 each of them, police take wins. You took your goose in a trash our home. Trash your bank if you got real balls. Let's tell the class to go. Oh, diciamolo chiaro, Nazi Punk Fuck Off. Mette andavane fuori dagli attributi sessuali che uno ha o si sente di avere o che vorrebbe, basta che vi levate di mezzo. Le scatole. Esatto, esatto, esatto. Va bene, mentre i nostri vicini di casa ci minacciano di passare a salutarci, purché abbiate i vostri dispositivi di protezione individuale e rimaniate a debita distanza, sapevatelo. Ma confidiamo. Esatto, esatto, esatto. Va bene. Tra l'altro ho sentito dire che potrebbe arrivare anche... tipo qualcosa di sfizioso insieme a questi vicini. Attenzione! Possibile? I vicini hanno detto che ci portano a mangiare? No, vabbè, non voglio creare illusioni. Dai, comunque vi vorremmo bene in ogni caso. Allora, cioè, visti i vicini e il tipo di persone, secondo me portano più che altro qualcosa da bere. Sono fatti un po' così. Non lo fai, so, 25 aprile so. Si brinda, dai, un po' di rosso. Ma stiamo parlando della stessa persona? Non lo so, sì, non lo so, ma speriamo di sì. Va bene, caro, allora, se chiami tu, se no chiamo io. Basta che mi mandi il numero. Ti chiamo io, l'ospite, il nostro ospite. Stiamo per parlare. Ospite di avere ospite. Sì. Questa è una citazione della Madonna che vi sto facendo. Cos'è? Che citazione? Dai, quello, lo scoppiettone di Rai 3. Piacere ospite di avere ospite. Il burro di Merlino. Il burro di Merlino. Ma cosa stai dicendo? Dai. Vabbè. Lucarelli. No, Lucarelli. Tu lo stai è chiamando? Il babbo. Sì, attacca... Attacco la magia. Voilà. Andiamo a parlare con Leo, se non sbaglio. È proprio Leo. Devi lasciarlo qui in mezzo così si sentono le nostre voci. Che però devo introdurre, insomma. Certo, introduci magari quando ci risponde. Ci vuole una piccola introduzione. Adesso, buongiorno, zona rossa, no. No. Ha risposto. Pronti? Sì, ciao Leo. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Ragazzi. Ciao Leo. Piacere Guglielmo. Piacere. Non abbiamo avuto il piacere di conoscerci di persona, ci conosciamo via telefono. Dai, in questa giornata di sole ci si riesce almeno a sentire per telefono. E dammi l'onore di presentarti, perché insomma... Grazie. Leonardo, vabbè, noi ci conosciamo tramite il centro per giovani del nostro quartiere. Tu adesso sei sempre stato in un'altra zona o per un periodo hai vissuto a Baggio? Io ho vissuto a Baggio, diciamo, con mia madre, poi con mio padre sono sempre rimasto invece più verso, chiamavate prima, di Pensini, insomma, quella zona lì della Galaratese. Doppia nazionalità, quindi. C'è la dogana, esatto, tra Baggio e Galarate, Galaratese, c'è la dogana e questo periodo... sono stati, sei attento come parli, ti sparano anche. Questo periodo sì, eh. No, tu stai facendo il servizio civile all'ANED, giusto? Esatto. Che è l'Associazione Nazionale Ex Deportati. E ti chiederei due cose: una, di raccontarci un pochino qual è il lavoro di questa associazione, che cos'è che hai fatto tu nello specifico, poi se in questo periodo le attività sono completamente ferme, state facendo qualcosa. Poi noi vorremmo anche raccontare un paio di cose rispetto ai luoghi della ferocia, dell'oppressione. Milano in Movimento ha scritto qualche cosina per un po' ricordare a Milano quali sono stati i luoghi dove i fascisti hanno perpetrato alcuni orrori. Tu ce ne vuoi raccontare qualcosa rispetto a uno di questi? Insomma, libertà de parola. Va bene. No, beh, allora, intanto, diciamo, la scelta dell'ANED, poi così cito un po' anche quello che ho fatto con Dario e con quel centro giovani, che è stata un'esperienza per me fondamentale della mia vita. Abbiamo fatto insieme un viaggio della memoria, che non è, diciamo, il cui unico obiettivo non è andare a visitare Auschwitz, ma c'è dietro tutto un percorso storico fondamentale. Quindi, a distanza di 4 anni, mi sono... ho scelto di fare il servizio civile all'ANED, che è appunto questa associazione a cui hai già accennato, adesso, il cui presidente adesso è un figlio, nel senso che è nata dagli ex deportati e dai parenti di chi non era tornato, e pian piano, per forza di cose, per il corso del tempo, si sta trasformando. Grazie che hai citato il nostro viaggio che abbiamo fatto insieme, anch'io sottoscrivo, bellissima esperienza che sicuramente ci ha unito, oltre che la musica abbiamo anche questa esperienza, è stata molto interessante e profonda. Sì, poi bella, adesso non so chi ci sta ascoltando, però appunto magari lo sa già. Io tenterei di salutare Selene, perché sono... Cioè lei in ascolto. Cioè, dico tenterei, allora chiedo anche scusa per non averle fatto gli auguri, perché mi sono... Però... scuserà sicuramente. Adesso magari mi arriverà un messaggino di conferma dell'ascolto, ma noi la salutiamo. Ciao Selene. Ok. Ma tanto, se posso inserirmi, l'esperienza del treno della memoria è doppiamente bella, perché per finanziare il viaggio giovani ragazzi e ragazze dei centri giovani venivano e vengono sempre a fare 2000 passa salamelle a partigiani nel quartiere. E quindi è bellissimo. Esatto, infatti era, cioè, siccome appunto era quel, però l'hai già detto tu, cioè era proprio l'esperienza del viaggio bella, perché è fatta con i centri giovani, tra l'altro ne parlavo ieri anche con altri amici, diciamo, non toglie nulla fare un viaggio della memoria con la scuola, però questo è un altro significato anche di scelta personale, che insomma dà valore a un'esperienza non obbligatoria, tra l'altro, secondo me non è che devi andare per forza a fare il viaggio per essere contro le atrocità che sono state commesse, certo, assolutamente. Quindi, però tornando al volo all'ANED, appunto, ne ha di anni, adesso il presidente tra l'altro è Dario Venegoni, appunto, dicevo, un figlio, e poi per arrivare a uno dei luoghi anticipo subito che entrambi i genitori, diciamo, sono passati da San Vittore prima di essere poi, diciamo, trasportati nel campo di prigionia di Bolzano. E niente, io adesso come servizio civile ho iniziato il 15 gennaio, purtroppo dopo un mese e mezzo più o meno abbiamo iniziato a rallentare già prima del decreto, perché comunque l'iniziativa grossa che abbiamo fatto a fine febbraio era, diciamo, indirizzata agli iscritti, quindi già anziani, e c'era già stato un po', insomma, iniziava ad esserci un po' di avvisaglie e un po' di paura, quindi era andata un po' male anche quella iniziativa, purtroppo. Però è a sede l'ANED nazionale alla Casa della Memoria, che è una struttura molto importante, diciamo, raccoglie associazioni importanti, c'è dentro l'AMPI, l'Istituto Ferruccio Parri, che tra l'altro insomma, persona fondamentale anche del dopo Resistenza, che ha formato questo archivio con un sacco di scritti partigiani consultabili. Allora, il progetto originale era quello di mappare, tra l'altro, appunto, il territorio di Milano con ovviamente insomma, dati che ci sono già, e purtroppo ci siamo più o meno fermati a quelli, ma l'idea era di approfondire per poi creare, diciamo, o una, insomma, anche un viaggio virtuale di Milano per chi non conosce Milano, o semplicemente degli approfondimenti. Per esempio, ho visto anche gli hobby che avete citato voi in articolo, mi sembra fossero l'Hotel Regina via Rovello, la sede della Muti, insomma ne avete citate parecchie anche voi. Adesso ci siamo più trasformati, cioè, insomma un po' rivisto il lavoro da fare, purtroppo ci portiamo un po' più avanti sull'aggiornamento degli archivi. Adesso io sto lavorando sull'archivio che si chiama Ci portano via, che raccoglie un po' tutta la deportazione bolognese. Ah, cavolo. La deportazione bolognese. Sì, quindi proprio... Sì, è fatta, Ci portano via, si chiama proprio così il sito, è stato, diciamo, organizzato, ci hanno lavorato in particolare l'ANET Bologna, ecco, Ah, quindi è un'associazione nazionale? ANET è assolutamente un'associazione nazionale, con sede a Milano, però diciamo con la presenza più forte ce l'ha dal centro nord in su, anche per una questione poi di... Esatto, perché li avete giustamente nominati, insomma, deportati politici, in cui poi rientrava dallo scioperante in fabbrica, dal ragazzino portava anche solo magari il volantino, o dal figlio che mentre deportava la madre si trovava lì con lei, cioè nel senso, appunto, poi hai fatto prima anche un po', cioè il fascismo cos'era, caspita. Quando l'hai fatto ho pensato anche semplicemente al fatto che gli scout cattolici non potessero più ritrovarsi a un certo punto, cioè per dire, non è la cosa più importante in quel momento, chi se ne frega degli scout cattolici, però addirittura l'ingerenza del fascismo arrivava lì, cioè controllava pure la parte ludica, tra virgolette ludica, poi certo. Se imposta non è magari non è ludica, ecco. Sì, sì, infatti fa pensare poi quanto di fronte a ogni norma che cerca di mettere le mani su un'azione di un gruppo, vada fatta una riflessione, insomma, cioè non bisogna sottovalutare niente, perché poi quando si è dentro il momento è anche più difficile ragionare su quello che sta succedendo, cioè guardare oggi il fascismo, riusciamo anche a dividere tutto quello che è successo e analizzarlo complessivamente. Oggi, quando la nostra vita viene normata, è più difficile inquadrarla in un'ottica generale. Invece ogni singola legge, ogni singolo atto repressivo aveva un senso. Assolutamente. Invece sui luoghi, tra l'altro, una curiosità, cioè nel senso che a me ha colpito molto, ma per forza di cose così, diciamo che la parte ovest che adesso è Milano, cioè dove abito io, il Galla, diciamo di luoghi tra virgolette dietro città interessata a me, perché arriva insomma in Piazza Le Rotte, cioè forse era dove c'era Villa Fossati, Villa ribattezzata Villa Triste, ma poi sì. Fin là Milano non esisteva ancora. Certo. E tra l'altro avete nominato anche, mi sa, se non proprio Villa Triste, comunque la banda Koch l'avete nominata, o Koch, adesso la pronuncia mi sfugge. Sì, cioè se tu fai riferimento all'articolo di Milano in Movimento, da cui ci stiamo anche ispirando, sì, esatto, poi nella trasmissione radio di oggi non ancora, però grazie che ci apri un po' la strada, esatto, sui luoghi della Ferocia. Sì, un altro... della Ferocia, appunto, adesso io, ma l'avete nominato perché poi appunto non ho più approfondito molto, anche perché tra l'altro gli ultimi libri che ho trafugato, ma consensualmente dalla biblioteca ANED, erano sulla Ligure, sulla deportazione ligure, perché ho la ragazza là, mi interessava un attimo quella parte della resistenza che non conoscevo assolutamente. Ma domanda di pignoleria. Allora, cioè, i dati che vengono raccolti, cioè, che tu hai in mano, arrivano da dove? Sì. Sono i registri dei nazisti che tenevano conto di chi deportavano? Sono lettere che scrivevano i deportati prima di partire? Sono stati raccolti? Cioè, come funziona la ricerca storica sulla deportazione? Allora, adesso apro e ti dico direttamente che fonti hanno riportato loro in quell'archivio, per esempio. Allora, diciamo, le fonti principali sono il Mantelli, che è uno studio, un libro di deportati, non mi ricordo in che anno, adesso non vorrei sbagliare, ma abbastanza recente, cioè non ha più di 15 anni, che è uno studio che Mantelli ha fatto, credo, con l'Università di Torino, in questo momento, scusate, mi sfugge, però che raccoglie a partire dagli archivi dei campi del Reich, principalmente. E quindi quando tu leggi Mantelli, diciamo, ci sono principalmente i passaggi che il deportato ha fatto nei vari campi del Reich. E E quindi appunto poi è stato dovuto integrare per Bologna, appunto c'è il registro in matricola del carcere di San Giovanni in Monte, che invece appunto è il carcere bolognese, e quindi il lavoro di Anne Bologna è stato un po' ricostruire la deportazione in territorio italiano. Perché gli italiani non tenevano gli stessi registri dei tedeschi, cioè avevano i loro registri se li avevano, e i tedeschi avevano un'altra contabilità, tra virgolette, che sia molto triste a dirla così, che riguardava i loro campi e i loro raggruppamenti. Sì, cioè, sì, diciamo che appunto anche il passaggio alla deportazione passava spesso e volentieri prima dalle camicie nere, cioè dai fascisti, che poi insomma per motivi, forse diciamo è riduttivo definire di sottomissione, però poi passavano l'oggetto in questione, perché ormai era diventato quello, ai nazisti, e la maggior parte degli italiani, esclusi gli IMI, deportati sono stati appunto gli oppositori politici, cioè il Triangolo Rosso. Certo. E poi c'è tutta la parte che appunto di lavoratori coatti deportati al Reich, che è impressionante, anche cioè nelle fabbriche che citavate prima, in Italia, in Germania l'impegno su più fronti dell'uomo tedesco ha svuotato le fabbriche, e per riempirle hanno utilizzato anche il famosissimo caso di Schindler. Schindler poi è riconosciuto come giusto per aver salvato un migliaio di ebrei, ma la fabbrica che ha acquistato l'ha acquistata a bassissimo prezzo da imprenditori ebrei che vivevano nel ghetto di fianco alla fabbrica che lui ha acquistato, e poi nel 41, nel 40, adesso non mi ricordo, è stata riconvertita a fabbrica per materiale bellico dove lavoravano ebrei. Solo successivamente lui, diciamo, ha fatto una presa di coscienza e si è opposto al regime nazista. Non so prima quanto fosse, diciamo, d'accordo con quelle cose, però ci ha messo un po', cioè come imprenditore si è fatto all'inizio probabilmente anche i suoi calcoli. Certo, dicevamo prima che stranamente c'erano degli scioperi perché il fascismo aveva, cioè, scusi, dicevamo prima che Davide prima diceva che l'intero sciopero era stato soppresso dal fascismo, adesso viene fuori che un imprenditore poteva marciarci insieme al nazismo. Insomma, questi movimenti di estrema destra, tanto per il popolo, poi non si capisce bene quando è che lo facciano, tutto questo bene per la povera gente che viene millantato da neofascisti e neonazisti, sembra molto ridicolo. Poi vai a studiare la storia, invece vedi che ci guadagnavano un sacco di soldi i ricchi col fascismo e col nazismo invece che i poveri. Però vabbè, sarò io. Sì, che esatto. E poi, ma è così. Poi, ma anche in numeri la corruzione nel fascismo era per forza di cosa minore, nel senso c'era un partito solo e gli organi erano quelli, in percentuale forse erano anche maggiori, per dire, cioè nel senso, poi le motivazioni che vengono portate sono tutte allucinanti. Se poi uno, cioè, prendi un qualsiasi libro, anche solo un libro che parla della rivolta delle officine Teodosio per tornare a Milano con la manomissione, le manichette dei tram e tutto quanto, cioè basta quello secondo me. Poi come diceva Davide, come dicevi anche tu, cioè, c'è tutto un panorama dove dovunque peschi va bene, poi serve pescare di più per avere appunto il quadro complessivo, ma certo. E un esempio, no scusate, dimmi no, poi io mi dilungo, quindi poi ti faccio un'altra domanda dopo. Ok, no, a me piace ricordare via Rovello, che avete ricordato anche nell'articolo, cioè il centro di comando della regione autonoma Ettore Muti, che poi è dove c'è stato poi lo Streller, il piccolo di Milano, cioè dove Grassi con Streller hanno costruito poi un luogo di cultura, non underground per carità, però insomma un luogo di cultura importantissimo per la realtà milanese. Certo. E nei sotterranei, dove sono i camerini, c'erano le celle dove venivano massacrati prigionieri. E adesso non so quanto sia leggenda, sia storia vera, però io non c'ero, mi ha raccontato, non c'erano neanche quelli che mi hanno raccontato, però sembra che addirittura appunto sotto gli strati di intonaco ci siano ancora le tracce di sangue, nel senso hanno proprio pagato questo tributo volontario Streller e Grassi alla resistenza milanese, conservando, riconvertendo ovviamente il luogo, ma conservando comunque la memoria in maniera anche simbolica e forte. Questo è bello anche perché comunque il teatro piccolo è a due passi dal Duomo, è a un passo da Cairoli, Piazza Castello, il centro bello di Milano. Forse bisognerebbe raccontarlo che lì sotto ci torturavano le persone, così in pieno centro. Sì, anche con anche l'albergo regina che avete nominato, insomma, quello l'ha riconvertito in maniera forse meno nobile. Ecco, ho fatto il 27 gennaio di quest'anno la commemorazione davanti e diciamo che non c'è un teatro, ecco. Sì, stavi parlavi dell'albergo regina adesso? Sì, sì, sono portato all'albergo regina. Sì. Non è neanche più un albergo, ma non che è stata, certo, che è stata la sede appunto del comando dell'SS qua a Milano. Esatto, esatto, assolutamente. Guglielmo, se hai una domanda, perché poi ce ne ho anche, una, anche io una. Sì, l'ultima, nel senso che allora adesso abbiamo parlato che Nantelli, lo dico bene, l'autore che ha, insieme all'Università di Torino ha fatto uno studio sui dati che arrivano dal Reich, dai registri tedeschi di deportazione. Invece i dati italiani dov'è che si riescono, dov'è che li recuperate, se si riescono a recuperare? Allora, beh, i registri di matricola dei carceri sono fondamentali, c'è anche quello di San Vittore che dà uno spaccato della deportazione non solo milanese, perché poi adesso non so, da San Giovanni in Monte diciamo magari andava al campo di Fossoli e non passava neanche da San Vittore, però in Lombardia sicuramente, appunto, penso anche ai due genitori di Venegoni, che presente Ahmed, sono stati lì mesi e si sono tra l'altro incontrati insieme sugli stessi pullman ATM, tra l'altro, che trasportavano poi i prigionieri al campo di Bolzano. Quindi sì, principalmente i registri di matricola dei carceri aiutano tantissimo. Appunto un archivio importantissimo è quello del Parri, di Ferruccio Parri, che comunque ha raccolto memorie partigiane importanti. E, adesso, beh, sì. Insomma, questi sono un po'... diciamo, principalmente questi, poi... Se vuoi fare studi più approfonditi, come ha fatto anche Bologna, anche semplicemente le anagrafi, perché poi quando tu arrivavi al campo, soprattutto al Reich, quando insomma ti devono dare il numero di matricola, sono tutti... c'è una piattaforma interessantissima che si chiama Arolsen, che invece stanno aggiornando sempre di più, contiene gli archivi dei documenti, dei campi del Reich, ma lì appunto c'era spesso e volentieri uno scrivano straniero, cioè tu andavi lì e dicevi Leonardo Viviani, magari ti scriveva Leonardo Bibiani, e tutto un lavoro poi anche di incrocio dati, e a volte alcuni davano anche falso nome per non coinvolgere familiari, insomma è complesso, non è finito, è un po' anche il bello di questa associazione. Ha fatto un lavoro forse uno dei lavori più grossi fatto presidente, è lo studio sul campo di Bolzano, che poi appunto si parla tanto, insomma, chi si interessa di questi temi lo sa, quindi non forse neanche il caso di dirlo qua, però... Mi sentite? Sì, scusate. Sì. No, si parla tanto dei campi del Reich, poi appunto in Italia c'era un sistema comunque, seppur diverso e assoggettato a quel sistema lì, fondamentale. Sì, anche se, come tu mi ricordavi in una telefonata ieri, anche questo è più noto di altri luoghi. Il binario 21 è il luogo da cui partivano i deportati di Milano, sotto la stazione centrale, nascosto sotto l'attuale binario 18 della stazione di Milano, stazione centrale, che poi è stata oggetto di tanto investimento propagandistico per i fascisti, tant'è che tuttora c'è il falso... Hanno fatto anche cose buone, no? No, sì, o comunque c'è il falso centrale. Esatto, c'è il falso mito della costruzione della stazione, che in realtà risale a prima dell'Unità d'Italia, e poi ha avuto mille modifiche fino agli anni 70, fino agli anni 2000 ha avuto delle modifiche strutturali, mentre tutto fascista è il binario 21, che portava spesse volte nei campi di Milano, d'Italia, sì, sì, e anche in Germania. Sì, assolutamente. Sì, no, io dicevo... sì, no, comunque questo è giusto, l'ho già detto, quindi non dicevo. Chiaro. Sì, binario 21 non l'ho nominato perché poi nel senso non è stato solo quello il punto di partenza, ma è stato un punto di partenza fondamentale e tra l'altro nascosto, quindi insomma chissà come mai nascosto, e anche lì insomma l'eliminazione ebraica tendenzialmente veniva definita dagli aguzzini del Reich soluzione finale, cioè c'era anche un po' un'evasione di quello che succedeva davvero anche dal punto di vista linguistico. Sì. Senti, io no, invece però io poi magari vi lascio, parlate di altro, perché vado lungo. No, volevo A proposito delle rivolte in fabbrica, c'è un romanzo bellissimo che mi porto sempre nel cuore, che è Ciascuno muore solo di Hans Fallada, che è una ricostruzione romanzata di un'inchiesta della Gestapo di marito e moglie che organizzavano, che cercarono di organizzare la resistenza in una fabbrica tedesca. Quello è un romanzone devastante, ma molto bello. Interessante, ce l'appuntiamo. Tra l'altro, dato che fortunatamente ci hai raccontato un bel po' di cose interessanti, a questo punto ti lancio un doppio invito. Cioè, uno, appena finisce tutta questa situazione, se avrai voglia di continuare a riprendere un po' questi o altri argomenti, fisicamente potrai venire qua alla radio di ZAM, che è dietro casa mia, quindi facilmente raggiungibile. Ma insomma, questi capitoli li possiamo riaprire insieme. E invece, dato che stai collaborando con questo archivio, perché no, se ti andrà nel tuo lavoro di mettere assieme un po' gli studi, le ricerche, se vuoi di scrivere qualche cosa che possiamo pubblicare, può uscire con Milano in Movimento, può uscire sotto qualche portale, alla grande, insomma, che dici? Volentieri. Lancio questo invito così, in diretta, difficile da rifiutare. Avanza in diretta, difficile da rifiutare, quindi ho approfittato un po' del momento. Senti, ma prima di salutarci, ti va di provare a condividere un bel ricordo del nostro viaggio insieme durante il treno della memoria? E anche una canzone. Ok, beh, il bel ricordo adesso per gli amici intimi che ti stanno ascoltando è quando sei tornato l'ultima mattina, che eri bello in botta. Ero bello tramortito da esperienze nottate. E poi invece un ricordo intenso riguardo la memoria. Toh, mettiamola così. Era per drammatizzare un attimo. Sì, hai ragione. No. Ma a me appunto entrare, insomma, adesso quanto eravamo, un centinaio forse, dico sempre, diciamo, perché siccome Auschwitz poi nell'immaginario comune un po' sia un po' più presente la struttura di Auschwitz, a me è rimasto molto di più, i 104 anni, sono anche un po' stupito, diciamo, di questa cosa, ma la camminata che abbiamo fatto anche a tappe, perché poi ci sono dei punti di interesse, tra virgolette, tristemente di interesse all'interno del campo, ma è Auschwitz 2, che poi è Birkenau, che è veramente, per me è rimasto un ricordo di sterminata dimensione come campo. Poi in realtà, insomma, il lato più corto forse fa 2 chilometri, che insomma io chiedo a mia madre, aspetta, quando è nel campo, dice come una città no. Però c'è, cioè, sì, grande spazio, diciamo. È più esatto, più grande il campo di Trenno, di muratura c'è pochissimo, a parte la famosissima immagine di Birkenau, che è quello quando i binari stanno per entrare, ecco, e c'è davanti l'ingresso in muratura, e quello che fa impressione in realtà a me è quello che c'è dietro. E dietro è, io mi ricordo questa cosa qua. Chiaro. Oltre alla cerimonia che abbiamo fatto, molto personale, però. Sì, molto. Che ci hanno invitato a scegliere un nome di un deportato da portare con noi nella memoria, che abbiamo scritto su un foglio, cioè su un foglio, su un fazzoletto, su un... Sì, io sì, poi mi è stato lavato via dalla pioggia, però me lo ricordo, si chiamava Anna, e lei era una studentessa polacca, oppositrice politica anche lei, morta a 23 anni, insomma, vabbè. Senti, mentre pensi alla canzone, se ce l'hai già, sparacela, se no, 5 secondi per pensarci, ti dico il mio di ricordo, vi dico il mio di ricordo forte rispetto... Anche io ho avuto la fortuna di visitare, o la sfortuna, a seconda dei casi, ma per fortuna, secondo me. E, no, il mio ricordo è l'odore delle baracche dentro Auschwitz-Birkenau, proprio questo odore che mi ha fatto pensare a... Cioè, queste pareti di legno mi hanno fatto pensare a tutto quello che avevano assorbito negli anni, tutto quello che avevano vissuto, che mi è stato riassunto in una sensazione nel naso in quel momento. Leonardo, però nel frattempo dici la canzone, perché dobbiamo cercarla, scaricarla, eccetera, eccetera. Poi... Ah, dai, ma io vi lascio continuare, la scrivo a Davide, e poi se volete dite che è quella che vi ho consigliato, così ci penso un attimo in più, perché sennò... In questo momento mi viene Auschwitz di Cuccini, ma è un po' pesante, o qualcosa di un po' più brioso, seppur significativo, certo. Visto che vi ho ascoltato e avete messo musica impegnata, ma anche, diciamo, Sì, esatto. Per il morale. Anche, esatto, anche un po' per tirarsi su, visto l'argomento. Esatto. Okay, ricordiamolo, è una giornata di sole. Esatto, dopo 13 anni di Piocù sotto la pioggia, le nuvole, tutti in impressione a guardare sì. Il meteo. No, 13 anni no, per le ultime 4 edizioni abbiamo preso un freddo della Madonna, soprattutto al treno, c'era il ghiaccio la mattina presto, prendevi un freddo a montare il palco, invece quest'anno naturalmente sole. A sfregio, ricordo a tutti e tutte da casa che sono già sbocciati i fiori, la primavera è partita, per chi non ci crede è rimasta la glaciazione. E c'è anche la liberazione. Ma allora, mentre Leonardo pensa sempre alla canzone, a questo punto invitiamo anche il nostro nuovo ospite qui che ci ha raggiunto in studio a pensare a una canzone. Vai, dici Leo. No, tornavo ad ascoltarvi dal computer, così vi libero il telefono. Ma va bene, dai, allora ti salutiamo, grazie Leo, ti aspettiamo in versione scritta. Grazie a voi, un abbraccione. Grazie mille. Ciao bello, un abbraccione. Ciao. Buona giornata, ciao. Vabbè, a questo punto qualcuno mi suggerisca un brano da mettere, perché il buon Leo non aveva un'idea. Qualcuno sente da loggione. Ma sì, il buon Leo in realtà ci aveva già suggerito Nazi Punk Fuck Off, esatto. E quindi noi gasatissimi abbiamo voluto chiedergli un altro. Subito. Lo scorso pezzo era del buon Leo e adesso è in arrivo Sandokan. Ah, bellissima! Fantastico! Qua c'è stato un nuovo ingresso. Manda che Bassotti, ci sta già, diciamo, dai. Dando dei suggerimenti. Radici, Madonna santa, come mi sei? Il nostro nuovo fantasticissimo amico vicino di casa. Già radio speaker, quindi gioca in casa. Se stai ancora 10 secondi quando sei seduto, ti porto un microfono e parli anche tu. Qua è così. Radici nel cemento. Sono svezzato così. Forse già dicendolo così si è già capito che brano sarà. Abbiamo un attimino però che devo fare tutti i miei soliti traffici. Allora, io invece posso musicale introduttivo? No, posso condividere il racconto, cioè il mio ricordo di Auschwitz, che ho visitato quando ero in terza media. Pensate un po', abbiamo fatto uno scambio di una settimana con una scuola della Polonia di Łaziska Górne, un paesino a 80 km da Varsavia, che ci hanno poi portato a vedere anche Auschwitz, naturalmente, perché è giusto che quando si vada in certi luoghi, in certi posti, si visiti le cose importanti. La cosa che mi ha sconvolto sono state due. Punto primo, beh, in realtà 3 o 1 milione si potrebbero ricordare, ma punto primo il binario dove impiccavano la gente. Con la guida che ci diceva di fianco, solitamente c'era un'orchestra, 4 elementi, presi tra gli internati del campo che suonavano mentre facevano le esecuzioni, mentre la gente entrava e usciva, perché piaceva molto ai tedeschi la musica classica, quindi avere l'accompagnamento durante le fasi del giorno. L'altro ricordo sconvolgente è stata la montagna di capelli, perché quando si fa il tour in una delle baracche hanno allestito una vetrata che sarà alta 2 metri, lunga tutta quanta la baracca, quindi almeno 10 metri, con capelli, perché loro li tosavano tutti prima di entrare, li tenevano da parte, fantastici tedeschi, hanno sempre queste idee meravigliose, chissà poi per farne che cosa. E quindi montagna di capelli, e la cosa invece che mi ha sconvolto più di tutte erano i gradini scavati, cioè i gradini delle baracche sono in pietra, in marmo, scavati proprio col solco, e se uno pensa che non hanno avuto 50 anni per fare, ma 3-4 anni, vuol dire che lì dentro ci passavano centinaia di migliaia di persone tutti i giorni, che trascinando i piedi con gli zoccoli grattavano pezzo dopo pezzo la pietra. Ma una roba così non l'ho mai vista, cioè gli scalini delle vie di montagna sono lavati così, ma sono lì da millenni. E quindi niente, questa cosa qua dei gradini consumati mi è rimasta in mente per molto tempo. Va bene, allora su richiesta, sul suggerimento del vicino di casa più bello del mondo, io ero Sandokan, Radici nel cemento, 25 aprile 2020, biografie rivoluzionari, ci vediamo tra pochissimo, ci sentiamo tra pochissimo. A dopo. Beh, che pezzo che ci hanno consigliato. Pezzone. E ne abbiamo già un altro in lista per la chiusura. Assolutamente. Siamo prontissimi. No, ricordiamo un paio di cose, un paio di orari. Gli appuntamenti di oggi. Alle 3, tutti quanti, finestra aperta, impianto, cassa, cellulare, qualsiasi cosa abbiate, pompatela al volume max e boom boom, bella ciao. Bella ciao, cantata a squarciagola, non fate come i cantanti, siccome i giocatori di calcio che non sanno il testo, ve lo ripassate in caso non lo sappiate. Esatto, non vale il labiale. Esatto. E invece alle 18 inizierà la diretta di Partigiani in ogni quartiere. E quindi collegatevi. Anche questo evento bisogna seguirlo tutto d'un fiato, assolutamente. Noi, per quanto riguarda il centro sociale ZAM, diffonderemo della musica un po' durante pomeriggio, canti partigiani, ma non solo, perché è giusto oggi, insomma, ricordare quello che è stato, senza tante paturnie. E poi altre cose? Cosa ci possiamo dire? Io volevo solo condividere un ultimo ricordo, così prima della chiusura, che sia tu che Leonardo con i vostri racconti mi avete fatto tornare alla memoria, rispetto al mio viaggio ad Auschwitz e all'esperienza che ho fatto con il treno della memoria, che consigliamo a tutti, che si può fare in diverse modalità, anche come volontari, nel caso prendete contatto con qualche servizio o centro che porta i propri ragazzi e ragazze a fare questa esperienza, appunto. Io ricordo il muro dei fucilati dentro Auschwitz, con proprio sgomento. Quello fu un luogo che mi sconvolse, nel senso che già ero abbastanza provato da tutto il giro. Quando arrivai lì crollai totalmente. Questo era un muro costruito all'interno del campo di concentramento, quindi senza alcuno scopo strutturale, un muro di una ventina di metri, dove venivano fucilati coloro che si opponevano dentro il campo. Quindi i resistenti all'interno del campo venivano fucilati lì. E questa cosa mi sconvolse, perché pensai a quelli che neanche dentro il campo di concentramento, dopo essere stati arrestati per magari crimini politici, opposizione o qualsiasi altra ragione, all'interno del campo non ci stavano, e quindi organizzavano magari dell'attività politica, cercavano di organizzare delle fughe, cercavano di organizzare delle proteste, perché ci furono anche delle proteste dentro i campi, ci furono tentativi di assalto all'SS. Quelli che appunto si opponevano anche là dentro venivano fucilati in quel posto specifico, e questa cosa proprio mi colpì tantissimo. E quando parlavi prima dell'orchestra che accompagnava l'esecuzione, come tanti altri momenti della giornata, ho pensato allo spettacolo. C'era un'orchestra ad Auschwitz, che consiglio a tutti e tutte, c'è una compagnia teatrale che propone questo spettacolo molto molto bello, che racconta la storia di una violinista che, deportata, venne costretta a far parte dell'orchestra, o comunque gli fu data questa possibilità. L'alternativa era la morte, quindi lei, per cercare di sopravvivere, dato che le condizioni erano leggermente migliori, cioè non lavoravano tutto il giorno magari come gli altri, ma si esercitavano mangiando pochissimo nella malattia. Infatti lei morì, tra l'altro, adesso non ricordo se proprio il giorno in cui il campo venne liberato. Comunque, di questo esercito e di questa orchestra molti morirono, pochi si salvarono. Va bene. Ho chiuso tristemente? No, perché d'altronde non è che sia un giorno in cui si può essere soltanto contenti. La liberazione è accaduta perché qualcuno schiavizzava qualcun altro, picchiava qualcun altro, uccideva qualcun altro. Per cui rabbia, rancore, odio e tristezza, direi che sono comunque ospiti della giornata. Va benissimo, appunto, perché si parla di rabbia. Abbiamo sul menù l'ultima della canzone che proponiamo oggi, e poi andiamo a chiudere, avendo già ricordato tutti gli appuntamenti della giornata per questo 25 aprile, un po' atipico a causa della quarantena, ma sicuramente non meno resistente. Vi proponiamo Fili della stessa rabbia, ricordi tutti i partigiani e partigiane, lavoratori e lavoratrici che hanno dato la loro vita per consegnarci un'Italia libera dal fascismo, per quanto poi purtroppo del tutto libera non lo è ancora. Ci impegneremo in futuro. Ci mancano dei pezzi. Esatto. Vi ringraziamo per l'ascolto. Grazie, Davide, per essere stato qui con noi. E grazie a te. Buona giornata di liberazione a tutti e a tutte. Buon ascolto. Che colpirà in ogni paese, in ogni città. civil, la comandante Clelia, Zamora, Marcel, come c'è paraturno Martì, figli della stessa rabbia, come Sius e Licenier, Tupac Amaru e Simon Bolivar, come c'è paraturno Martì, figli della stessa. E purtroppo ci sono pessime notizie da dare anche questo 25 aprile. Sì, ci sono arrivate delle notizie, ci sono delle news già in realtà da un'oretta circa. Ci sono state un paio di cariche, c'è anche un compagno che è stato fermato, trattenuto dalla polizia durante il giro per portare i fiori nelle targhe partigiane, sia in via Padova che in zona Navigli. Insomma, la polizia è tenuta antisommossa. Ha bloccato i compagni e le compagne, sì, che portavano i fiori partigiani. Sì, ricordiamo, tra l'altro, già che siamo qua a dare questa news, il tentativo dell'estrema destra in questo periodo di approfittare del vuoto che la piazza avrebbe naturalmente dato a causa delle restrizioni. Hanno tentato di lanciare questa una marcia per snaturare la giornata di oggi e fare un populistico appello contro un po' sia il complotto globale sia le banche, che è un po' tutto quello che gli veniva in mente, e mentre insomma i compagni in questo momento stavano portando dei fiori, ecco. Cosa si fa per essere protagonisti quando c'è un po' di vuoto, eh? Cosa ci si inventa? Poi alcuni esponenti dell'estrema destra, anche la Russa per esempio, ha lanciato delle proposte. Dedichiamo questo 25 aprile a tutte le vittime, anzi al ricordo, perché il ricordo loro più della memoria gli piace come parola, al ricordo di tutte le vittime di questo virus. Insomma, cioè, perché è la giornata giusta, giustamente. Esatto, quindi ci provano. E poi un po' di divisione, un po' di pepe, a noi ci va bene, chiaramente non la repressione poliziesca che in questo momento sta trattenendo un compagno, avremo poi notizie. E va bene. Di nuovo saluti. Saluto un amico, Cesare, dalla Sardegna. E abbiamo ascoltatori anche dalla Sardegna. Dalla Sardegna, sì. Incredibile. Sì. E precisiamo una cosa, cioè ci tengo, perché qua prima un po' timidamente dicevamo ci mancano dei pezzi da cui liberarci. No, ci vuole una nuova liberazione, già. Assolutamente di dell'ordine sociale in cui viviamo e che ci costringe oggi. Grazie ai partigiani e alle partigiane che ci hanno liberato dal fascismo, a noi oggi liberarci dal capitalismo e dall'imperialismo. Lo faremo al prossimo punto in agenda. Va bene, grazie a tutte e tutte di nuovo. Ciao, belle. Ora vi lasciamo la musica. Ciao, ne.